Cialtroni nello spazio mentre Marco parla senza accorgersi che i microfoni sono aperti. Noi diamo il via a questa ennesima puntata di questa trasmissione. Marco, che cos'è questa trasmissione? L'attimo di approfondimento informatico di Radio Onda d'Urto. Un attimo che dura circa mezz'ora e che purtroppo ci costringe ad ascoltare anche la tua voce. Un saluto anche ad Alessandro in regia. Ciao a tutti. E come al solito Cialtroni nello spazio, dai, dillo bene, trasmissione di informatica libera. Sì, quelle robe lì. Nuove tecnologie. Nuove tecnologie, diritti digitali, copyright, no copyright, condivisione delle informazioni e quant'altro. Vabbè, glielo stamperemo con un chip sotto pelle sulla gamba che gli fa male dopo essere caduto in bicicletta. E... beh, non potevamo non prenderti in giro. Vabbè, sto imparando, ho tolto le rotelline adesso. Infatti. Allora, puntata non particolarmente ricca, anche se di informatica si è parlato a lungo nei giorni scorsi sui quotidiani, in particolare su una sentenza di una della Cassazione che si è guadagnata gli onori della cronaca e su cui c'è stata anche parecchia confusione, di cui andremo a parlare tra poco. Come al solito a tenerci compagnia ci sono i Chemical Brothers Remixed e la musica che Ale ci presenterà più tardi a fare uno stacchetto in mezzo alla nostra trasmissione. Iniziamo quindi da un po' di novità, e anzi parleremo moltissimo di novità, due in primo piano, la chiusura di un sito e una sentenza della Cassazione che riguarda il peer-to-peer. Dopodiché parleremo di nuove norme negli Stati Uniti sulla registrazione di ogni contenuto di informazione via internet, poi parleremo di un progetto abbastanza difficile da realizzare, ma una costruzione di una... decisamente bello, sì, un jammer di telefonini, com'è? Ecco. Marco si è proposto già per fare un corso al Circo Lab su come se non sa tenere in mano il saldatore, figuriamoci. Vabbè, comunque, diciamo che vi insegneremo a imparare come costruire un disturbatore di frequenze, mettiamola così. E poi tante altre cose come al solito che ci verranno in mente durante questa trasmissione. Da dove vogliamo iniziare? Iniziamo da psicoattivo.net. It. È stato chiuso la scorsa settimana dalla Polizia Postale di Campobasso il sito psicoattivo.it, che era un punto di riferimento nazionale per chi si interessa di informazione per quanto riguarda le sostanze allucinogene o psicotrope. Era un sito con tantissimi materiali, linkato anche da molti altri siti che trattano gli stessi temi, contenente un po' di tutto, dalle informazioni appunto riguardanti le sostanze, i loro effetti, i metodi di assunzione, in certi casi i metodi di coltivazione, di preparazione. Insomma, un sito informativo molto molto ricco. E decisamente anche importante, soprattutto perché oltre che alla coltivazione insegnava proprio anche i rischi, il rischio di uso combinato e vari altri effetti che ci sono nell'uso di un certo tipo di sostanze, quindi sicuramente era un sito che aiutava anche a capire il mondo delle sostanze psicotrope e non solo. È stato chiuso anche se non vendeva assolutamente nulla, anche se non commetteva nulla di illegale se non quello di fornire informazioni, però esiste ancora un po' via cache di Google o comunque varie repliche non facilissime da trovare, però su webarchive.org e su altri siti che si occupano di diciamo così, tenere traccia dei siti internet. Per chi vuole l'elenco completo dei siti che lo ricopiano lo trova su cavallette.autistici.org, una notizia che è di gennaio, quindi /2007/01, e il numero della notizia è il 332, quindi ripeto l'indirizzo: cavallette.autistici.org/2007/01/332 permette di risalire ai siti che hanno copiato nel corso del tempo questo psicoattivo.it. E parliamo adesso di una sentenza che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi, una sentenza della Cassazione che non solo ha creato, diciamo così, molto interesse, ha fatto parlare molto, ma ha creato anche molta confusione. I fatti, nelle settimane scorse, in particolare il 9 gennaio del 2007, è stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione che riguardava un sito FTP gestito da due studenti di Torino che avevano messo a disposizione di chiunque voleva del materiale protetto da copyright, quindi musica, programmi e altri tipi di contenuti in forma digitale. Ovviamente chiunque si collegava poteva scaricarlo. La sentenza della Cassazione, che ha dovuto esprimersi nel merito di fatti che risalgono al 1999, ha detto che scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d'autore non è illegale, cioè rendere disponibile non è illegale. C'è stata un po' però di confusione in realtà sul fatto che questa sentenza della Cassazione in realtà entra nel merito di fatti che risalgono al 99. Dal 2000 ad oggi ci sono state importanti modifiche alla legge sul diritto d'autore, che sono state introdotte anche nell'ordinamento italiano, anche per esempio il recepimento della direttiva europea sul copyright, ma soprattutto la famigerata legge Urbani e alcune modifiche successive. Sostanzialmente con le modifiche successive, che adesso in Italia non si parla più di scopo di lucro, quindi quando non c'è scopo di lucro, ma con il trarne profitto, e secondo alcune interpretazioni, che però non sono ancora state confermate da nessuna sentenza arrivata in Corte di Cassazione, già il fatto di non dover pagare un contenuto è una sorta di profitto, e quindi sostanzialmente le cose rimangono un po' come prima. Da notare che invece sia l'ANSA, che parlava tra l'altro di una rete peer-to-peer, che altri quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, non spiegavano benissimo quello che è successo. In realtà quello che forse lo scarica meglio è Punto Informatico, nell'articolo "Scaricare file protetti rimane illegale", che spiega anche, riporta anche un commento di un giurista, un giovane studente di giurisprudenza, Carlo Sgarzi, che scrive nel suo commento: "Uno dei principi del diritto penale risiede nell'applicare la legge del tempo in cui fu commesso il reato. Oggi, in seguito ai successivi interventi, in particolare al famigerato decreto Urbani, poi convertito in legge il 22 maggio del 2004, la medesima attività dei due studenti torinesi configurerebbe reato. All'epoca dell'allestimento del server clandestino, tra virgolette, elemento soggettivo era lo scopo di lucro, e per gli studenti non si è in alcun caso configurata alcuna attività lucrativa. Mentre invece dal 2004 il perno della sentenza della Cassazione, lo scopo di lucro è stato sostituito dal ben più restrittivo trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d'autore". Quindi diciamo che le dichiarazioni che si sono un po' susseguite nei giorni scorsi, tra l'altro per esempio Marco ci teneva a sottolineare la dichiarazione di Roberto Maroni, che ha parlato di sentenza rivoluzionaria e che era molto contento dopo essersi tra l'altro autodenunciato negli scorsi mesi proprio come scaricatore, esatto, illegale di musica dal web. L'esponente della Lega ha appunto detto che questa sentenza rivoluzionaria stabilisce il principio che la musica è di tutti, e ora, da ora in poi, scaricarla dal web non potrà più essere considerata illegale. Purtroppo non è così, dobbiamo dirlo anche a Roberto Maroni, che sappiamo essere un nostro fedele ascoltatore. Ne notiamo che Maroni probabilmente è stato uno anche di quelli che ha votato la legge Urbani nel 2004, esatto, quindi potrebbe prendersela con il suo caro amico Urbani, per cui probabilmente a questo punto quelli della sinistra non diranno niente, sono loro al governo, faranno passare comunque questa notizia senza fare alcun commento di... e poi magari diciamo che c'era stata anche facendo molta di nuovo qualche legge a favore della SIAE, e poi magari tra 4-5 anni salteranno fuori i prodi di turno dicendo: ah, sono anch'io uno scaricatore illegale. Però quando si tratta di fare le leggi, la cosa più interessante in effetti, oltre a questo caos mediatico, è il fatto che, non, che c'è stato un applauso collettivo a cui si sono opposte soltanto la SIAE e le organizzazioni che traggono profitti immensi dall'attuale legislazione sul diritto d'autore. Perché infatti sfido a trovare qualcuno che su internet abbia mandato un'email dicendo che era sbagliato, insomma, che non fosse per esempio Omar Pedrini, che nei giorni scorsi l'ex chitarrista dei Timoria si è espresso sui quotidiani locali anche contro lo scaricare online, dicendo che appunto frega gli artisti, devono essere pagati correttamente, eccetera. In realtà è il mezzo di distribuzione che non funziona più quello normale tramite CD, ed è abbastanza normale che la diffusione della musica via online, che tra l'altro permette di conoscere diversi autori che poi possono di conseguenza fare più concerti, organizzare, essere più conosciuti, e quindi comunque non impedisce a loro di essere conosciuti, ma semplicemente scardina il principio secondo il quale sono solo pochi a guadagnare dal diritto d'autore, quindi i soliti grandi nomi e tutti gli altri invece entrano nel mercato e restano anche un po' attanagliati da questo. E del resto organizzazioni come la SIA e la RIA americana cercheranno in tutti i modi di non perdere questa gallina dalle uova d'oro, che è appunto la distribuzione, appunto facendo passare delle leggi in modo da favorire la loro situazione, la loro posizione, e quindi penalizzando fortemente coloro che utilizzano internet per scaricare e condividere musica. Infatti una notizia adesso rapida dagli Stati Uniti, dove l'ennesima mamma che è stata denunciata dalla RIA, in questo caso riesce a schivare appunto i processi appunto intentati dalla RIA, la società dei discografici americani, e appunto in quanto si è accertato che questa non sapeva neanche utilizzare il computer, ma in realtà la causa si è quindi riversata immediatamente sulla figlia, che è stata condannata a un multone da $30,750, ovvero $750 per ogni canzone illegalmente scaricata. O messa in condivisione, che è solo scaricata? Poi citano scaricata, infatti mi stavo appunto chiedendo se fosse... Probabilmente si trattava di un sistema peer-to-peer che poi permetteva anche ad altri di scaricare dal suo computer. Esatto. Comunque. E quindi quello di Patrizia Sant'Angelo è forse uno dei rari casi di persone che sono salvate, però in questo caso vabbè, la causa è ripiombata sulla figlia appena maggiorenne. E appunto la tattica l'equivalente della CIA americana, la punta alla RIA, è quella di contrastare in tribunale tutti coloro che cercano di condividere musica su internet. Ha in ballo qualcosa come 18.000 cause contro minorenni, e in gran parte dei casi con pesanti sanzioni per coloro appunto che sono macchiati del delitto di condividere della musica su internet. E magari facciamo piccolo stacco musicale. Andiamo ad ascoltare il brano che ha vinto un concorso fatto da CC Mixter, che è un progetto abbinato alle Creative Commons, un sito dove è possibile condividere brani e sample musicali, e per i DJ appunto, che poi possono remixarli e utilizzarli come campioni. Allora, il vincitore del concorso, il concorso era dedicato a Christopher Willits, e il vincitore del concorso è questo Electric West, che ha remixato una canzone che si chiama Color Shifting. con questa allegra musichetta noi torniamo in trasmissione. No, io volevo parlare di quell'altra cosa, però vabbè, dai, no, vabbè, questo è... seguiremo quello che vuole seguiamo dire. Seguiamo un filo logico, dai, che appunto non è normale. Di condivisione per... di appunto altri siti che sono stati bloccati di recente sono il sito ed2k-it.com, probabilmente un motore di ricerca per file di Edonki, e poi il sito isohand.com, bloccati entrambi da azioni legali intentate dalla Motion Picture Association of America contro i provider che tenevano i server di queste di questi siti, che vanno a allungare la lista di quelli che sono stati i siti bloccati fino ad oggi da, sempre dall'appunto dalla MPA. Quindi ricordiamo i vari Supernova, LockiTorrent, ZTorrent e quant'altro. L'unico che sembra funzionare ancora da un sacco di tempo, nonostante tutto, è The Pirate Bay, che è tornato a funzionare, che ha avuto anche lui un po' di down, ma è ritornato in piedi dopo un paio di giorni. Forse anche uno dei più attivi dal punto di vista politico per la, per quanto riguarda la legalizzazione della condivisione internet. E appunto ci sono un po' di commenti di questi giorni, che appunto questo nuovo attacco ai siti di distribuzione di contenuti copyrightati probabilmente nasce anche di seguito al fatto che hanno cominciato a distribuire i primi DVD HD in, appunto attraverso sistemi di BitTorrent. E vabbè. Vabbè, cosa? Niente, era la notizia finita. Cioè, questo era l'elenco dei siti peer-to-peer che hanno bloccato recentemente. Va bene. Invece la notizia di cui ci andrai a parlare adesso, e che ti comporterà non pochi problemi legali, è che ci insegnerai a disturbare le frequenze dei cellulari e di tutti gli apparecchi che funzionano con frequenze simili, tra cui anche le connessioni internet via wireless. Ti concediamo 5 minuti per insegnarci a costruire questo attrezzo. Allora, se volete costruirvelo dovete essere decisamente bravi a utilizzare saldatori e lavorare su componenti. Ma io pensavo che potessi costruirlo anche tu, non che fosse una cosa... Sì, una cosa è la possibilità di costruirlo, un'altra cosa è la fattibilità. Io ho una mano un po' troppo poco ferma per riuscire a saldare decentemente. Neanche per frenare in bici. Però è decisamente vaffanculo. E anche si può dire vaffanculo in radio? No. Azzap, sì. Allora, è decisamente interessante questo progetto, perché appunto cos'è? È un sistema che analizza le trasmissioni wireless che avvengono nel suo intorno, e quando ne trova una ci spara sopra del rumore, in modo da andare a rovinare completamente la trasmissione di questo sistema. Ovvero, io costruisco questo oggettino che si chiama come si chiamano? Jammer in italiano, disturbatori di frequenza, gemme marmellata, insomma, esatto. E lo attivo, e quando il nostro amico Ale accende il suo telefonino, il jammer si accorge: guarda, c'è un telefonino acceso qui intorno, e spara sulla frequenza scelta dal telefonino di Alessandro una serie di dati pseudo casuali, in modo da andare a rovinare completamente la trasmissione. Il risultato è che Alessandro non può usare il telefonino fin tanto che io ho questo scatolino in mano e la batteria del mio scatolino funziona. Ma si possono cambiare anche le frequenze? Fa tutto da solo, analizza una banda probabilmente intorno ai 2 GHz, ogni frequenza che trova lui ci spara dentro dei dati. Durata delle batterie variabile a seconda del tipo di batterie, comunque si dovrebbero arrivare sulle 4 ore, in un oggetto grande come un pacchetto di sigarette, antenne escluse, che sono anche un po' lunghette. Cioè, un po' difficile da nascondere. Lo so, però insomma è abbastanza potente. Un raggio di qualche decina di metro penso possa funzionare decentemente. Lo si trova sul sito del culto della mucca morta, The Cult of the Dead Co., che era abbastanza diventato famoso alla fine degli anni 90 per un paio di giochini che permettevano di entrare nei computer degli altri. Direi che erano i primi Trojan livello di massa, visto che erano i primi che uscivano all'epoca di internet, Back or Ifis. No, beh, ce n'erano un sacco. Quello ha fatto sì, più che altro era uno dei primi che permetteva di utilizzare un computer Windows da remoto. Ricordiamo che computer Windows non sono fatti per essere usati da remoto. All'epoca soprattutto. All'epoca soprattutto, quindi quello era stato veramente bello perché era un tool di amministrazione remota decisamente diciamo che potente. All'epoca venivano venduti dei software con un prezzo discreto, insomma. Come... No, all'epoca era gratis. No, ho capito, no. Però venivano venduti dei software per il controllo per la gestione remota e controllo remoto come PC Anywhere, insomma, quelli che viaggiavano in quell'epoca. E questo che era sostanzialmente un... Ne erano due componenti, insomma, comunque quello che si infiltrava nel computer era una sorta di Trojan, era invece autoprodotto e faceva le stesse cose sostanzialmente, anzi era più potente perché lavorava anche di nascosto, raccoglieva più informazioni, sì, era, beh, più stabile. Fatto sta che all'epoca i firewall non erano ancora diffusi a livello software sui computer di casa e quindi molti pensavano, cioè se lo scaricavano per sbaglio glielo mandava un amico nascosto da qualcos'altro e si ritrovavano poi il computer che veniva preso in possesso da altre persone. Beh, gli stessi quindi che allora si divertivano a giocare con le reti e con le condivisioni di Windows, adesso hanno prodotto questo simpatico attrezzo per confondere tutte le comunicazioni cordless, GPS, Wi-Fi, Bluetooth e quant'altro. Insomma, decisamente un oggettino molto carino, molto difficile da costruire, abbastanza anche costoso, si parla di un centinaio, $130 di, solo di componenti. E così a naso ci vorranno un bel po' di ore per assemblare tutto questo sì, oggettino, perché però... lavorando ad alta frequenza richiede anche una realizzazione di una certa qualità, non è un circuito molto semplice, però la cosa interessante è che il circuito e tutte le informazioni riguardanti come realizzarlo, il disegno, i componenti eccetera, è tutto sotto licenza Creative Commons, pubblicato via internet, nonostante l'apparato sia illegale. Nel senso che il come costruirlo non lo è disponibile, ma l'apparecchio non sarà mai in commercio. E con questo siamo quasi in chiusura di trasmissione. Andiamo a parlare ancora di un paio di cose. No, sì, vogliamo parlare di quello che sta per accadere negli Stati Uniti? Parliamone allora, modifiche ad alcune leggi, che, in particolare quella sulla editoria, che obbligheranno i siti web che richiedono più di 500 utenti, cioè quelli che vengono visitati da... In realtà tutte le fonti di formazione rivolte al grande pubblico che abbiano un bacino di utenza uguale o superiore a quei 500 utenti, ovvero tutti i blog. Sembra proprio scritta apposta per tutti i siti internet, tutti i blog e ogni possibile modalità di... No, vabbè, se riuscite a nascondere bene il vostro sito e non farlo trovare a nessuno, riuscite a essere fuori da questa... No, perché parla di bacino di utenza, quindi in realtà non conta gli utenti reali, ma solo quelli, cioè quelli potenziali, quindi di fatto, a meno di avere un sito protetto da password, ci finisce esatto. Dentro. In caso contrario sono previste pene severe, secondo il settimo emendamento alla legge... La mancata denuncia si viene considerati la stregua dei criminali e si può parla incorrere... piano e dentro il microfono bene, per favore. Con la mancata denuncia si viene considerati la stregua dei criminali e si può incorrere addirittura in un anno di prigione nel caso in cui il reo deliberatamente intenzionalmente non provveda alla dichiarazione. Beh, questa tipo di legge l'abbiamo già vista in Italia, se non sbaglio, un po' di anni fa con la registrazione obbligatoria dei siti internet al ministero del no, come era la famosa equiparazione tra i siti internet e la carta stampata, che diciamo è forse la prima fase del tentativo di criminalizzare, reprimere e controllare tutte le forme di informazione libera che internet permette di che internet ci permette e quindi che danno fastidio probabilmente a un sacco di gente. Beh, mi sembra che con questo abbiamo detto tutto per oggi. Sì, beh, due commenti solo su questa cosa. L'equiparazione non è una cosa da poco, è un bello smacco alla libertà di informazione, e considerando la potenza dei social network, o comunque della produzione di informazione attraverso la rete, e che vabbè, negli Stati Uniti è particolarmente accesa, ma comunque anche qua in Italia ci sono casi di giornalismo fatto attraverso i blog, vabbè, quello più famoso è quello di Grillo, ma ce ne sono altri, sono reportage, anche cose filmate ci sono adesso in giro. Fa specie che appunto proprio negli Stati Uniti venga fuori una legislazione così repressiva, insomma, considerando la loro volontà comunque di difendere la libertà da sempre loro... negli altri paesi, chiaramente. No, vabbè, nel sentimento di americani per quanto riguarda la libertà di espressione ci sono sempre stati fortissimi, cioè uno dei principi cardine, cos'è, il primo emendamento, la libertà di parola negli Stati Uniti è appunto uno dei perché non dici mai una cosa precisa che fosse una? Perché non sono preciso e non so le cose, me le invento al momento. E poi non le leggo come fai tu. Vabbè, dai, con questo penso che potremmo anche lanciare la sigla e chiudere questa trasmissione ricordando il Circo Lab. Marco, non l'abbiamo ancora detto neanche una volta. Ah, esatto. L'indirizzo tu non lo sai. Via Fratelli Bandiera 14. Aperto là? Domenica pomeriggio dalle 5 alle 9, 8, dipende. Alle 5 del mattino, alle 8 del mattino. 5 del pomeriggio. Dai. Alle 5 del pomeriggio. Che mai cazzo apre alle 5 del mattino? Mai una volta preciso proprio. Dalle 17 alle 21 circa, con vari concorsi, tra cui quello per il logo del Circolab e anche poi il famoso torneo. Torneo di briscolone. È vero, c'è il torneo di briscolone al Circolab. Iscrivetevi. Torneo di briscolone al Circolab. Maggiori informazioni su www.circolab.net, dove trovate anche la nostra email radio@circolab.net per scriverci, interagire, proporre, collaborare, fare quello che volete. Ci sentiamo la settimana prossima, mercoledì alle 12:40 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.